E io che ancora mi innamoro come uno scemo, perché l'innamorarsi è uno specifico dell'uomo. Spudorato mi accosto all'incerto dei tuoi richiami. Sono io che deliro e tu che ami. Non so dove ora tu sia giunta, cara indimenticabile Maria, che all'inizio degli anni 70 conoscesti la rabbia e l'ironia. Avevi il dono assai inconsueto di ridere persino del tuo mito, e l'intuizione di una strana fede per cui una cosa è vera soltanto quando non ci si crede. Perché per credere davvero bisogna spesso andarsene lontano e ridere di noi come da un aeroplano. Se tu fossi davvero esistita, cara indimenticabile Maria, fin da allora potevo imparare a congiungere il vero e la bugia. Nelle notti massacranti, riempite di parole intelligenti, e nell'angoscia della vita ho in mente ancora l'eco della tua risata. Perché per vivere davvero bisogna spesso andarsene lontano e ridere di noi come da un aeroplano. Forse sei solo un'ipotesi di donna, forse sono esagerati i sentimenti e i mille spunti che mi dai. Se è vero che si tratta di una Maria che non conobbi mai, ma so che a me piace pensarti, cara indimenticabile Maria, come fossi davvero esistita, col tuo gusto di amare e andare via. Perché persino nell'amore, nell'eccellenza del soffrire, nella violenza di una litigata, eri così coinvolta e così distaccata. Perché per credere all'amore davvero bisogna spesso andarsene lontano e ridere di noi come da un aeroplano. E che la logica assurda del tempo, questo tempo che tutto porta via, riesca almeno a salvare il tuo nome, Maria.